ecco, Perifea, ci sei Perifea, l'hai nascosto, ci sei, gira manovella, qua è Stampede, sotto. Ecco, ecco, c'è nessuno sul canale. Ecco, ecco, ecco, ecco.